Don't Like It Wicked qui da Roma. Anche oggi è, come dire, sta diventando una piccola tradizione iniziare, o quantomeno ad inizio trasmissione, menzionare il buon Raffaele Pezzella, sonologist, la sua Anes Play Sounds, ottima pagina Facebook di affezionati, pagina che consiglio sempre per chi vuole approfondire il lato, diciamo, più sperimentale della musica stessa. Ci sono anche moltissime uscite, molte compilation targate con questa sigla. Per esempio questa Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, un interessantissimo spaccato della scena iraniana, addirittura quella più nascosta, quella che più si ignora. Or dunque questa sera iniziamo con Reza Solatipur con Surviving the Darkness e poi Noyan con Revolution. Thank you. Adesso è il turno di Noyan con questa Revolution, sempre da Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music. Saluto anche a Stefano of Lawrence, connesso da Torino. E di nuovo assisto Plombella che si esercita anche nello scrivere in iraniano, cosa che credo riesca a pochi. Ecco, eccola qua, Revolution in Noyan. Noya Mostofi da Teheran, musicista che viene da lontano attraverso le sue esperienze nella musica classica, nel jazz, fino a approdare appunto a questa forma di ambient. Il tutto estratto sempre dalla compilation di qui sopra, riguardante l'Iran, ideata, congegnata, costruita da Raffaele Pezzella da Napoli. Un saluto anche al buon Ramingo qui da Roma. Allora, parliamo un po' di Sisto Palombella, che oltre a scrivere in persiano è soprattutto un musicista, uno studioso, un ricercatore della fisarmonica applicata anche all'elettronica. Musicista anche di strada, ma non solo, musicista giramondo, musicista completo, che ci ha regalato delle autentiche perle che andremo ora ad ascoltare. Abbiamo qui parecchie tracce che ascolteremo nelle prossime settimane. E cominciamo dunque con A Concrete, Edit BB e Hard Dark Elastic, Sisto Palombella e la sua splendida fisarmonica. Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione, ancora con il maestro Sisto Palombella, la fisarmonica, Hard Dark Plastic. Salutiamo Fulvio Biondo di Sovrorloge e gli rispondiamo che stiamo ascoltando il maestro Sisto Palombella con la sua bellissima fisarmonica. Benissimo, dunque Sisto Palombella con questa antologia. Peraltro Raffaele Pezzella mi comunica che ci sarà proprio un'antologia, diciamo, ufficiale, che uscirà attraverso la Nesplay Sounds. E quindi noi ci ascolteremo e aspetteremo con impazienza le nuove notizie di Sisto Palombella. Noi intanto ci godremo anche nelle prossime settimane le altre tracce che personalmente ci ha donato Sisto Palombella, che salutiamo. I soliti riferimenti, diciamo, web, oltre alla pagina Facebook, anche Backcamp e SoundCloud, dove si possono apprezzare le opere di Sisto Palombella. C'è una bellissima foto di lui insieme forse al famigerato Mirtillo, famoso asino che ci ha fatto conoscere attraverso anche il web. Dunque lo salutiamo e lasciamo Sisto Palombella. Ci trasferiamo così in Polonia. Il tutto per andarci ad ascoltare New Radical, il terzo lavoro di Krepolek, un artista proveniente di laggiù, un po' a metà tra neofolk e in martial industrial. La scena polacca è particolarmente florida di talenti, soprattutto in questo ambito. E questa sera ci ascoltiamo Salute numero 2 e Roots Ludobi. Vedo che Sisto Palombella ha avuto un attimo di blackout, dunque lo ringrazio di nuovo e credo che adesso si sia riconnesso di nuovo. E appunto lo risentiremo nelle prossime settimane e in futuro anche con questa compilation che, come ho già detto, uscirà attraverso la Next Play Sounds. Ancora Krepolek. In un certo senso la fisarmonica è protagonista di questa prima parte di prove tecniche di trasmissione, sia attraverso Sisto Palombella e anche attraverso Krepulek, in questo progetto più votato al Martial rispetto anche alle influenze jazz, se mi permetto, e mi permetto di dire, quelle di Sisto Palombella. Qui queste influenze sono assenti e prevale il folk e il neofolk. Krepulek, terzo lavoro, New Radical. Intanto si saluta anche Runus Aylin. Li menziono anche per il loro interessante lavoro dal nome Inerzia, che ci ascolteremo prossimamente qui in questi spazi. E noi si va avanti con Laibach. Lo splendido Also Sprach Zarathustra, un disco di afflato neoclassico e sinfonico che ci ha tenuto compagnia in queste settimane, lo fa anche per questa sera, lo farà anche nella prossima settimana, quindi abbiamo fatto fondamentalmente un bel carico, praticamente lo abbiamo messo tutto. Questa sera ci ascoltiamo Die Handschuld 2 e Forsonnen Aufgang. Und schon ist ein Spiel. Und schon ist eine erste Bewegung. la toccante For Sonnenaufgang con queste splendide voci di Milans e quindi questa voce femminile ignota, purtroppo nelle note di copertina non mi sembra di trovarla. Also Sprach Zarathustra, ultimo album per Laibach, usato anche per un allestimento teatrale proprio in Slovenia. Torniamo in Italia e ripombiamo in climi ritualistico-esoterici e stiamo per presentare una nuova uscita riguardante Cordis e Cincti Serpente dell'amico Giovanni Lisi. Tra breve uscirà un'opera che andrà a seguire New Yugot del 2016 attraverso sempre l'Industrial Holocaust Recordings e questa traccia si chiama Cenotarium numero 2. Anzi, Cenobitarium numero 2, errata corrige, Cordis Cincti Serpente. Un saluto a Giovanni Liso. Thank you. E ce la siamo gustata tutta questa Cenobitarium numero 2 di Cordis Cincti Serpente, progetto di Giovanni Lisi proveniente da Bari, che salutiamo e ringraziamo. Effettivamente ancora una prova originale per lui, come giustamente sottolinea Like Awake. Diversi momenti emozionali soprattutto. Momenti più in bilico tra space ambient e ritualismo, altri passaggi più lancinanti. Per una traccia che è un prodromo di un prossimo lavoro che spero uscirà presto per Cordis Cincti Serpente. Si va in Germania, loro sono Ex Order, in realtà il lato Power Electronics di Inade, al contrario decisamente più ambient. Un compendio di recentissima uscita, si chiama The Place of Dead Roads, ci ascoltiamo Justice of Blinds e Opiate of Combat.